sono orgoglioso di ascoltare Radio Italia. Radio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, leggere quello che ho letto e ho sentito fra ieri e oggi è veramente, non so, devastante. Ma lo voglio utilizzare come un'opportunità, come un'opportunità per dirvi che il nostro movimento è sano, non ha problemi di doping ed è ricco di persone che hanno un'etica da cui tanti dovrebbero imparare. Per cui noi ci sentiamo pronti per le avventure che ci attendono e assolutamente sereni per quello che abbiamo fatto, perché io su questi atleti metto la mia faccia. Questo implica semplicemente un percorso che non necessariamente debba implicare, cosa che ovviamente io mi auguro, e sono su questo ottimista, una responsabilità da parte di questi ragazzi e da parte di queste ragazze. Ultima considerazione, che è secondo me ancora più importante, la volontà dell'assoluta trasparenza, la volontà dell'assoluta indipendenza da parte di questi organi di giustizia sportiva. Io personalmente la notizia l'ho letta delle agenzie e quindi fa capire anche secondo me come deve essere un giusto modo di interpretare il rapporto tra la governance del Comitato Olimpico e chi si deve occupare invece della giustizia sportiva in questo caso. Allora, quelli che avete sentito sono nell'ordine Alfio Giomi, presidente della FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera, dal 2012, e Giovanni Malagò, presidente del CONI. Per provare a capire e a spiegare alle persone perché l'atletica italiana è stata messa con la testa sul ceppo a 246 giorni dalle Olimpiadi di Rio, bisogna secondo me levarsi di dosso emotività e demagogia e provare a essere lucidi, senza ovviamente alcuna pretesa di sostituirsi agli organi giudicanti. Per questo abbiamo convocato, lo saluto e lo ringrazio, il giornalista italiano che è un'assoluta autorità in materia di questi casi scottanti, ed è Eugenio Capodacqua da Repubblica. Ciao Eugenio. Buonasera a voi, buonasera. Proviamo a spiegare, invitando anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, perché 26 atleti italiani, i cui nomi leggete sui giornali, e uno di questi, spero di averlo tra poco al telefono a dialogare con noi, Gibilisco, Howie, Greco, Donato, Meucci, insomma è inutile che stia a fare tutto l'elenco, lo trovate ovunque. Perché 26 atleti italiani potrebbero essere squalificati per 2 anni? Ma è molto semplice, perché sul marciatore Schwarzer sono emerse dei documenti sequestrati in federazione, in particolare delle mail, delle poste, eccetera eccetera, dai quali risulta che questi atleti non ottemperavano ad un obbligo, diciamo, regolamentare, che è quello di fornire la propria reperibilità in modo da poter dare adito ai controlli a sorpresa. È chiaro che non fornendola in maniera molto saltuaria, non adeguata, non secondo le regole, questa reperibilità, i controlli a sorpresa non possono essere effettuati, e di fatto per quel periodo di cui appunto si è occupata l'inchiesta non ci sono stati controlli a sorpresa. Chiaramente se questo poi è avvenuto per una mancanza degli atleti, per una nonchalance, per una sottovalutazione degli atleti, oppure per un meccanismo di farraginoso, perché non ci dimentichiamo che in quel periodo ancora c'era il passaggio tra le comunicazioni cartacee e quelle elettroniche, computerizzate. Stiamo parlando del 2011-2012, periodo di questo, no? Esatto, questo credo che la procura antidoping, che ha indagato più di un anno su queste vicende, lo possa aver sceverato, deciso, tant'è che su 65 casi 39 sono stati praticamente archiviati, mentre per gli altri, e questo va specificato, il problema non è il doping o nel doping, il problema è semplicemente che hanno eluso il controllo antidoping, rispettando le regole che dovrebbero essere state accettate e conosciute, hanno eluso il controllo antidoping, che è una cosa molto più grave che non la compilazione o la non compilazione di un modulo sul whereabout. Sì, quindi la Federazione Italiana ti invia un documento, dici dove sei quel giorno, a quell'ora, eccetera. Tu te ne sbatti, non rispondi e poi rimani sorpreso perché qualcuno chiede 2 anni di sospensione così. Sì, ci sono atleti ai quali questo avviso è stato mandato più volte, 2, 3, 4 volte addirittura, e lo stesso regolamento prevede che al terzo warning, cioè al terzo avviso, scatti la sanzione. Allora, la cosa che a me un pochino, diciamo, dà fastidio è che adesso chiaramente l'attenzione è tutta centrata sugli atleti perché si tratta di campioni, si tratta di personaggi noti, eccetera, eccetera. Però mi domando, ma la federazione atletica che adesso va, ho sentito, insomma, siamo cambiati, la purezza, la limpidezza, eccetera, eccetera. La federazione atletica che all'epoca avrebbe dovuto far scattare le sanzioni, perché al terzo warning la regola dice deve scattare la sanzione. Dove stava? Che cosa ha fatto? E il CONI che adesso minimizza, no? È cominciata secondo me l'operazione sabbia, no? Come succede a seconda. Scarica barile, sì, perché il CONI che cosa ha fatto? Che controllo c'ha sulle federazioni su questi casi? Non c'ha una sua procura che dovrebbe in qualche modo garantire che le regole stesse che lo sport si dà siano rispettate? Ecco, a me fa un po' specie che il presidente del CONI, diciamo in un certo qual modo, minimizzi addirittura gettando a mare l'operato di una procura che è quella della procura del CONI. Io credo o sono dei pazzi perché hanno accusato la gente così a vanvera, ma non credo, oppure evidentemente se hanno richiesto delle sanzioni per 26 atleti vuol dire che qualche fondamento c'è. Il fondamento c'è in effetti, perché ci sono i documenti del processo di Bolzano. Certo, è comunque interessante capire anche il punto di vista degli atleti e chiedere le loro spiegazioni, cosa che proveremo a fare tra un attimo, subito dopo il traffico. Eugenio, ti prego, rimani con noi ancora qualche minuto. 800 24 00 24 per le vostre chiamate, torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Tutti convocati. Stiamo parlando di questo terremoto relativo all'atletica italiana, collegato con noi Eugenio Capodacqua da Repubblica, ma collegato con noi anche e soprattutto Fabrizio Donato, ultima medaglia olimpica italiana, bronzo nel triplo a Londra 2012, che è in questo elenco dei 26 e che comunque ha tutto il mio rispetto e la mia ammirazione perché non si trincera dietro il silenzio ma si presenta e parla. Ciao Fabrizio, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ciao, senti, sono d'accordo, oggi ho letto alcune tue interviste, sono d'accordo sul fatto che il danno subito sia enorme, per voi comunque vada, e che spesso le garanzie come capita in Italia vengano calpestate, ma spiegami una cosa, spiega a me Eugenio Capodacqua, a tutti gli ascoltatori una cosa molto semplice, perché non avete risposto a quelle mail? Il discorso è molto complesso e parte da lontano. Nel mio caso specifico parte dal 2000, io ho iniziato a compilare questi famosi whereabout, questa parola che ormai circola da tanto tempo sui nostri PC, sui nostri telefonini, sui giornali, già nel lontano 2000. Ho iniziato con i fax, allora facevo parte del sistema antidoping internazionale IAF e non quello con i imputato. E sinceramente in tutti questi anni non ho mai avuto nessunissimo problema con il sistema di topic internazionale, tutto affidato liscio, mai avuto una comunicazione con loro, mai una munizione, mai saltato un controllo di topic e mai ovviamente risultato positivo con un controllo di topic, questo che sia chiaro. Nel 2006-2007 più o meno, adesso non ricordo bene con precisione la data, è subentrato anche l'antitopic nazionale del CONI, quindi è un sistema nuovo. E come tutti i sistemi nuovi, secondo me, secondo il mio parere, secondo quello che abbiamo prima riscontrato, aveva delle falle, aveva delle problematiche. All'inizio noi comunicavamo i nostri spostamenti, le nostre reperibilità tramite fax, e questi fax a quella volta arrivavano, a quella volta non arrivavano. Molto spesso chi era che si occupava di questa trasmissione dei fax fra Fidel e CONI probabilmente sbagliavo qualcosa di tempistico, non so cos'altro, e siamo incappati appunto in queste sanzioni. Successivamente è entrato il sistema telematico sempre CONI. Nel frattempo io sono entrato e uscito da questo sistema nazionale e internazionale più di qualche volta, anche perché l'inserimento da questi due sistemi va in base ai risultati dell'atleta. Sì. Più risultati ottieni e più viene controllato. E più viene controllato e fa parte della gerarchia internazionale, diciamo. Non sentiamo più Fabrizio, ci sei? Pronto? Sì, Eccoci. Sono io. Dicevo, successivamente è diventato telematico questo sistema informatico, e come tutti i nuovi sistemi faceva fatica a funzionare. Io ricordo che molto spesso faceva fatica a collegarmi, non mi riconosceva la password, l'username, e purtroppo anche noi siamo stati effettivamente un po' superficiali, non prendendo al santo il telefono e comunicare delle problematiche e eventualmente comunicare in altro modo i nostri spostamenti, quindi chi più che meno ha ritardato chi giorni, chi ore queste comunicazioni. E adesso attualmente il sistema funziona molto bene, questo lo posso dire tranquillamente. Non lo so, io mi sento un pochino una caga, mi sento un pochino una persona che si è trovato in mezzo a questa confusione, in mezzo a tutto questo casino, quasi involontariamente, o forse anche leggermente per colpa mia, perché non mi ascolto, che però non trovo giusto perché fondamentalmente nessuno di tutti questi atleti ha mai potuto fare pratiche illecite. E qui si parla di elusione di controlli, ma ragazzi, qui chi avrebbe dovuto eludere i controlli è stato positivo ed è stato assolto in questa lista. Capite che ci sono delle cose che non quadrano. Nel mio caso specifico vi posso assicurare che io sono 10 anni che compilo un whereabouts sempre uguale. Io faccio una sorta di copia e incolla, è già 10 anni che io non mi muovo più da casa, quindi il mio whereabouts è casa, campo, casa da 10 anni. Alcune volte sono stato anche richiamato perché il mio robot era troppo piatto. Capite bene che la mia vita è questa, la mia vita è quella. Poi sarei dovuto aggiornare nel sistema, giusto per farvi capire un pochino quali erano le problematiche e da chi era gestito il sistema. Non lo so, io mi trovo in questo casino che mai mi sarei aspettato nella mia vita di trovarmi in una situazione del genere. Ma sono sempre comunque fiducioso nella giustizia sportiva e spero di uscirne presto nel miglior modo possibile, anche se il danno è stato troppo grande. Su questo hai perfettamente ragione e credo che anche il giovane Capodanno possa essere d'accordo. Ma guarda, io apprezzo molto la sincerità di Donato, soprattutto nella parte in cui lui dice, ammette che una qualche trascuratezza indubbiamente ci deve essere stata, ma qui ripeto, per me il problema non è tanto il doping che non è il non doping, è semplicemente un discorso di rispetto delle regole. Ci sono delle regole, piccole, grandi che siano, che vanno comunque rispettate. Purtroppo in Italia in generale, nello sport in particolare, soprattutto in un certo tipo di sport di vertice, non succede solo nell'atletica, succede anche in altre discipline, c'è molta leggerezza di fronte alle regole, no? Perché si sa che le regole poi in qualche modo si possono aggiustare, fra virgolette. E questo dipende da un fatto molto semplice, cioè dal fatto che chi gestisce le regole, i controllori, coincidono con controllati. Nel caso dell'antidoping in particolare, io sono anni che mi batto su questo fronte, non perché ce l'abbia con gli atleti, io stesso sono stato atleta dell'atletica leggera, ho praticato e pratico ancora il ciclismo eccetera eccetera, quindi so cosa significa grattugiare una sella o fare una maratona di 42 chilometri, quindi capisco benissimo la psicologia e le esigenze dell'atleta e capisco che uno possa finire tritato in un meccanismo molto confuso come è stato quello del passaggio dal cartaceo all'informatico per quanto riguarda un problema così delicato. Detto questo, però, tutto questo va a dimostrare la mia tesi, la tesi che sostengo da anni, e cioè che i sistemi messi a punto dallo sport finora sono stati assolutamente fallimentari. Lo sport non può controllare se stesso, perché quando lo fa, anche in casi così complessi e delicati, perché poi vai a toccare la spiritualità, la vita delle persone eccetera eccetera, riesce a combinare il casino più assoluto. Detto questo, ripeto, bisogna distinguere caso per caso. Vorrei ben vedere che chi ha la possibilità e il sacrosanto diritto di dimostrare che non c'entrava niente, che ha fatto tutto il possibile e il dimostrabile, che quindi è vittima del sistema, lo possa fare. Questa è una fondamentale regola di garanzia. D'altra parte, Fabrizio, sorprende anche perché il sistema antidoping italiano, insomma, mi sembra quello più pesante, più importante del mondo, no? Tutto nasce da qui, le bolle scoppiano tutte qui, è da Bolzano, e nel ciclismo e nell'atletica. Io credo che forse in nessun altro paese i controlli siano così serrati. Potete correggermi se sbaglio. Fabrizio. Sì. Prego, prego. No, dimmi. No, niente, semplicemente È vero, noi abbiamo una legge antidoping che in altri paesi non c'è, anche se piano piano si stanno adeguando. Recentemente la Germania ne ha fatta una che è molto più severa della nostra, e quindi tutto questo, cioè il doping da noi è considerato un reato. Mentre invece nello sport, nei confronti di questo problema, per tanti anni c'è stata molta leggerezza, una sottovalutazione del problema, che ha portato tra l'altro alla diffusione di questo fenomeno che è pericolosissimo per la salute, addirittura nei giovani. Io mi sono dovuto occupare di casi di ragazzini di 17 anni che facevano ormoni femminili nel ciclismo in particolare, ma insomma un po' in tutti gli sport. Quindi ritorno al discorso di prima, il fatto che ci siano i controlli e che i controlli siano gestiti dallo sport non dà nessunissima garanzia, innanzitutto perché lo sport pasticcia, abbiamo visto questo drammatico episodio, diciamo, dei whereabouts, ma lo stesso sistema internazionale gestito dalla WADA, cioè l'agenzia mondiale, sì, è pieno di falle, cioè non si cercano tutte le sostanze, alcune pratiche, cioè l'ormone della crescita, per modo di dire, è messo nella lista delle sostanze vietate, ma è praticamente introvabile, non le trovano quasi mai perché sono sempre, un passo avanti rispetto, come si dice da anni, rispetto al lo sport non fa un passo avanti, ma non perché la scienza non sia in grado di arrivare. Ti faccio un esempio molto concreto: in questi giorni si discute del tramadol, che è una sostanza antidolorifica che viene usata in anestesia eccetera eccetera, no? La fanno gli atleti, i corridori, ed è diciamo inserita, dovrebbe essere inserita fra i prodotti vietati perché sì, appunto incide sulla prestazione eccetera eccetera, però lo sport non la inserisce perché evidentemente ci sono interessi tali che fanno in modo che in qualche modo questo passo non venga fatto, quindi si resta indietro, ma è lo sport che resta indietro, il meccanismo di controllo dello sport. La sensazione che ho io in questo caso, perché mi fido delle parole di Fabrizio Donato. Fabrizio, quanta fiducia hai adesso nel sistema? Al di là del danno provocato, quanta fiducia hai? Che ieri la fiducia è un po' traballato, oggi già va un po' meglio, a distanza di qualche ora ci ho dormito, oddio, non ho dormito, quindi neanche questo posso dire, non ci ho dormito su, ma oggi va un pochino meglio. No, la fiducia è sempre massima, chiaramente, anche perché fondamentalmente sono a posto della mia coscienza e ho poco sinceramente da temere, poi non lo so cosa succederà perché qui ormai non mi meraviglia più nulla, però comunque ho sempre fiducia nella legge, ovviamente. Io sono d'accordissimo con quello che dice il signor Capodacqua, anche se non sono così ferrato nell'argomentazione, in quanto non è il mio campo, io sono uomo da campo, da pista, da pedata, da sabbia, quindi anzi seguo molto il signor Capodacqua nei suoi interventi e ritengo che faccia anche un ottimo lavoro. Sì, senti, è vero che hai voglia di smettere? Ma nella mia vita qualche volta mi è capitato di pensare di smettere, per fortuna questo pensiero dura sempre pochi minuti. Ad adesso c'è la rabbia dentro di me, c'è la rabbia comunque sia di andare avanti e dimostrare cosa non lo so, perché non lo so anch'io, però c'è la solita rabbia, la solita voglia di far bene, di rimettersi in gioco e di continuare a cullare quel sogno che sto cullando tanti anni, è quella di riuscire a partecipare alla mia quinta Olimpiade e poi, non lo so, provare a fare qualcosa di importante. Grazie Fabrizio, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie Fabrizio Donato, grazie anche a Eugenio Capodacqua. Dimmi, Eugenio. No, niente, facevo in bocca al lupo anche mio a Fabrizio, perché sì, anch'io ritengo che siamo un atleta limpido, insomma, su cui purtroppo quando c'è la confusione non si sa quanto sia voluto o meno. Per esempio gli inquirenti di Bolzano sono convinti che questa confusione fatta a livello federale, a livello dirigenziale, non sia del tutto innocente, non sia del tutto casuale, però quando c'è la confusione purtroppo succede anche che qualcuno possa rimanere tritato, diciamo, sì, no? Sì, sì. E quindi io spero veramente che Fabrizio riesca a dimostrare lui come gli altri, come chi non c'entra nulla, cioè, scopriamolo, proviamo a scoprirlo. Il problema vero è che i processi mediatici si fanno seduta stante, no? Alla fine è purtroppo quello che stiamo facendo anche noi, ma ci tocca, ma è giusto così. Eugenio, grazie, alla prossima, buon lavoro, sì, ciao. Eugenio Capodacqua, ci fermiamo per la borsa, poi arriva Pardo, poi arriva un presidente, a dopo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta convocati. Dunque, ecco che torniamo dopo, spero si sia riusciti a fare un po' di chiarezza su questo casino scoppiato nello sport italiano e nel mondo dell'atletica, con questo caso doping, usando questa espressione tra molte virgolette e solo per banale comodità. Cambiamo argomento e voltiamo pagina. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Io bene, tu dove sei? Sono in un posto meraviglioso, va benissimo, va veramente benissimo. Sono stati sul letto stamattina a fare un'escursione. Io penso veramente che, cioè, poi io ho la fortuna di viaggiare tanto, ma continuo a scoprire cose una più bella dell'altra. Quindi, e la stragrande maggioranza di queste cose è in Italia, per cui per la cronaca, insomma, scusa il momento un po' provinciale, però è così. Senti, vista la regione in cui ti trovi, vorrei farvi sentire quanto è stato detto ieri da Ballardini, allenatore del Palermo, e soprattutto da Zamparini, presidente del Palermo, dopo la sconfitta interna in Coppa Italia con conseguente eliminazione contro i grigi dell'Alessandria. Ballardini: intanto l'atteggiamento è stato sbagliato dall'inizio. Noi abbiamo giocato tutta la partita in 10 più o meno, e abbiamo cercato anche nel secondo tempo di reagire, ma non credo sia un fatto fisico assolutamente, è un fatto mentale. Loro erano molto motivati. Ma anche il Palermo, penso, dovesse trovare queste motivazioni. Fatto mentale, non fisico, secondo Ballardini. Chi scrive via WhatsApp: ragazzi, tranquilli, la terza a retrocedere sarà il Palermo, e poi una cattiveria. Ballardini è una garanzia. 800240024 per le vostre telefonate. Sentiamo anche Zamparini invece, poi vi dico qual è stata la reazione di Zamparini, la mossa di Zamparini dopo questa esclusione dovuta a motivi motivazionali, a ragioni motivazionali, mentali, eccetera, da parte dell'Alessandria in casa al Barbera. Io mi vergogno per la prestazione di alcuni giocatori. Io non sono degno di rappresentare la maglia del Palermo. Ci saranno dei giocatori che non verranno convocati sicuramente. Ok, ma c'è qualcuno in particolare che è qui? Io non cazzo, lo dirò poi in settimana. Va bene. Io sono disgustato per come questi giocatori abbiano disprezzato la maglia rosa del Palermo. Ma veramente disgustato. E l'avete visto anche voi? Cioè, e la potete scrivere anche voi. Prendete il coraggio una volta, cazzo. Lo sapete anche voi, quelli che si devono vergognare di scendere in campo e fare queste prestazioni, o no? Allora, sul banco degli imputati, lo sappiamo, l'abbiamo scoperto oggi, perché sono stati messi fuori Rosa, Maresca, De Prelà e Rigoni, quindi a questi si riferiva evidentemente il signor Zamparini. Raffaele Treviso, buongiorno. Buongiorno signor Genta. Io volevo ritornare, se mi permette, io sono tifoso del Napoli, volevo ritornare un po' sulla partita Napoli-Inter, però in maniera un po' diversa, un po' più drammatica, e lo dico domani, in maniera più drammatizzare un po' la cosa. Io volevo innanzitutto dire questo, fare applauso a lei, perché io telefonai all'inizio del campionato, quando il Napoli dopo 3 giornate era penultimo in classifica, e lei mi disse che le squadre di Sarri fanno tutte così, che poi dopo spiccano il volo. Questo è stata una buona profezia la sua. Ce l'hanno raccontato, ce l'hanno spiegato. Vabbè, d'accordo, comunque l'aveva detta lei, per cui sì, praticamente ne prendo atto. Seconda cosa, volevo dire un'altra cosa. Io circa un anno fa, quando il Napoli perse in casa con la Juventus, fui forse l'unico napoletano a dire da buon sportivo che il Napoli meritò di perdere quella partita, perché la Juventus aveva giocato molto meglio. Allo stesso modo dico quest'anno che, con tutta l'onestà di questo mondo, con tutta l'onestà intellettuale che si può avere in queste situazioni, il Napoli lunedì scorso ha meritato di vincere quella partita. Ha avuto 20 minuti in cui avrebbe potuto anche farsi pareggiare la partita, come è successo l'anno scorso con l'Inter 2-2, 2-0, 2-2. Però quest'anno le cose sono andate in maniera diversa. Credo sia abbastanza indiscutibile questo. Per cui il suo numerico, assolutamente, Napoli ha controllato la partita per 65 minuti, l'Inter ha avuto 25 minuti finali, però è vero appunto che poi conta anche le palle gol che crei. Io ribadisco che Napoli è la favorita, è la squadra più forte ed è la squadra che gioca meglio in Italia assieme alla Fiorentina. credo che questo sia indiscutibile. Quindi, e ha meritato e ha vinto, altrimenti si corre il paradosso di enfatizzare più i meriti degli sconfitti rispetto a quelli dei vincitori. Però in quei 25 minuti finali va dato atto all'Inter di aver fatto molto molto bene, e siccome la gara è veramente una maratona che durerà 38 giornate, bisogna capire che cosa si nasconde dietro a quei 25 minuti, lo scopriremo, come dice Battisti, solo vivendo. Però io non credo che qualcuno possa mettere, cioè, se parliamo di merito, voglio dire, Napoli ha meritato di vincere quella gara, ha giocato meglio dell'Inter per 70 minuti, ha dominato l'Inter per un tratto di partita molto più lungo di quello che nel finale invece ha visto l'Inter. Poi ci sono i soliti episodi riferiti a Nagatomo, riferiti ai pali colpiti, quello fa parte. Come? Puoi parlare con Ciro Ferrara? Sì, parlaci tu, facci sentire qualcosa. Aspetta, intervista. Sto parlando con Pasotti qua, gruppo tutti intellettuali, gramsciani, però Ciro ci teneva, eh. Ciro ci teneva a dire delle cose in diretta, adesso lo passo, eh. Così posso risolto anch'io, eh. Pronto. Ciao Ciro, come stai? Ciao, bene, grazie. Ti diverto, no? Grazie a te, ti diverti, compardo. Senti, no, stavamo parlando, ascoltatore chiama e dice: penso che sia indiscutibile il merito del Napoli nella vittoria dell'altra sera sull'Inter. Lo penso anch'io, al di là degli episodi. Ah, beh, guarda che, insomma, chi conduce la classifica lo conduce sempre per merito. Poi c'è chi ha determinate caratteristiche, chi ne ha altre. Io ho visto la partita contro l'Inter, è stata una bellissima partita tra due squadre forti con caratteristiche diverse. In questo momento il Napoli è primo in classifica in maniera meritata, non direi, c'è dubbio, non per c'è, quello non che c'è ha, dubbio. Ha dimostrato fino a questo momento, e quindi che cosa aggiungere? Nulla, che se hai Higuain, che se poi hai anche un Higuain, allora, che funziona in questa maniera, sognare allora non è peccato, voglio dire. Guarda, io l'ho detto, lo sostengo già da un anno. Secondo me Higuain, insieme a Buffon, è l'ultimo dei fenomeni che abbiamo nel nostro campionato. Poi ci sono, per l'amor di Dio, tanti giocatori forti, tanti campioni. Qui stiamo parlando di fenomeni, di categoria diversa, e Gigi, Buffon e Higuain rientrano assolutamente in questa categoria. Higuain è un giocatore che avrebbe potuto giocare tranquillamente in quelli che erano i miei tempi, quindi parecchi anni fa, dove il campionato era ricco e zeppo di giocatori veramente incredibili, sì, sì. Insomma, però qualcosa è cambiato. Però qualcosa è cambiato quest'anno, perché Higuain fino all'anno scorso non era questo. Poi non sto a dire colpa di Benitez, colpa di questo o di quell'altro, è certamente cresciuto. Non lo so, se quello che stai dicendo tu è confortato anche dai numeri e dalle reti che ha messo a segno. Diciamo che è migliorata le sue prestazioni, e il fatto che lui andasse a rete mi sembra un motivo di continuità. Quello che è cambiato nel Napoli è sicuramente l'aspetto difensivo della squadra. Credo che questo sia la differenza rispetto allo scorso anno, una differenza importante, perché ovviamente questo l'ha portata a essere prima in classifica. Assolutamente. Grazie Ciro, poi riprendo Pardo, grazie mille. Sì, un abbraccio. Abbiamo il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Abbiamo Vito dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Volevo chiedere a Pardo e a tutte le persone in studio se il Napoli può continuare così, perché sintomatica è stata la partita con l'Inter, no? Dove 70 minuti e poi abbiamo ceduto fisicamente e mentalmente. Davide Lopez non è un intercambio giusto per il centrocampo, assolutamente. Quindi non so se De Laurentiis avrà testa e voglia di comprare qualche centrocampista valido. Insomma, niente, il Napoli ce la farà a reggere fino alla fine, questo è il... Posso rispondere, come ho detto prima, parlo, lo scopriremo vivendo, ma i segnali ci sono tutti. Io la ringrazio Vito, ma soprattutto ringrazio Urbano Cairo, presidente del Torino. Buongiorno presidente. Come va? Buongiorno a tutti. Le rubiamo io, Pardo, solo 5 minuti. Come va? Beh, direi molto bene, ma noi siamo sempre molto teneri con Urbano Cairo, ma perché se lo merita alla fine? No, guarda, non oggi, possiamo farci oggi nulla. Ho twittato, c'è un profilo, hanno fatto una analisi. Speriamo di riuscire a sentirlo. Cos'hai twittato, Pierluigi? No, oggi c'era questa analisi sul monte ingaggi della Serie A. E il Torino è la sesta squadra più virtuosa, cioè che spende di meno. Quindi se facessimo un discorso aritmetico dovrebbe essere quindicesima. Invece sono tanti anni che combatte a un livello nettamente superiore e ha prospettive soprattutto legate al settore giovanile, per il campionato, di un certo livello. In più si legano tutta una serie di progetti molto importanti. Io vado spesso a Torino, insomma c'è la memoria dei tifosi del Torino, che è una memoria chiaramente molto sensibile, perché il Torino ha una grande storia molto letteraria e anche da questo punto di vista è partito un progetto importantissimo, per cui io francamente rischio di essere solo elegiaco. Sai cosa? Avevamo convocato, speriamo di riuscire a riprendere Urbano Cairo, perché in un momento in cui, ma come fisiologico, come è consuetudine, in un momento in cui gli allenatori saltano come tappe di spumante, Urbano Cairo cosa ha fatto? Nel momento più difficile, dopo il grande inizio del Toro, quindi dopo 5 punti in 8 partite, li ho contati con una sola vittoria, il 2-1 sul Palermo, e 1, 2, 3, 4 sconfitte, cosa ha fatto? Ha annunciato la conferma di Ventura e di Petrachi. Presidente, eccomi qua. No, dicevo solo questo, dopo 5 punti in 8 partite, e lei che fa? Annuncia il rinnovo, il prolungamento del rapporto con Ventura e con Petrachi. Beh, ma diciamo che noi, allora, il nostro rapporto è cominciato ben oltre 4 anni fa, con Petrachi ancora di più, col mister 4 anni e mezzo fa, un percorso molto positivo, come risultati ottenuti, come giocatori giovani diventati giocatori importanti e quant'altro. Eravamo partiti benissimo quest'anno, poi c'è stato un po' di intoppi, un po' di anche di sfortuna, ma insomma poi quando non fai punti la sfortuna è relativa. Ma io non è che metto in discussione un rapporto di questa durata, di questi risultati ottenuti, anche di questo rapporto personale che c'è con Ventura e con Petrachi per qualche risultato non buono, per cui per me era tutto automatico. Magari era anche un segnale, no? Beh, oltretutto diciamo è anche bello poter dire a tutti all'interno, all'esterno, dappertutto, ma non che ce ne fosse bisogno, perché comunque c'è un grande rapporto tra il mister e la squadra e quant'altro, però era giusto anche mettere dei punti fermi come appunto abbiamo fatto, ma insomma non perché ci fosse bisogno, perché veramente il rapporto era bellissimo con tutti i giocatori che sono entusiasti. Poi sa lei presidente, perché quando parliamo con gli allenatori, noi giornalisti, allenatori magari in cerca di panchina, la domanda banale è cosa chiederesti a una nuova società, e tutti inevitabilmente rispondono la programmazione, e lei ha rinnovato Maxi Lopez, Perez, Bovo, Gazzi, Moretti, e poi come dicevamo Dives, è il sesto monte ingaggi più virtuoso, cioè più basso della Serie A, al quale però corrispondono risultati di altissimo livello, quindi c'è un'efficienza impressionante. Anche noi come monte ingaggi credo che saremo più o meno una via di mezzo, non siamo tra quelle che pagano poco, non siamo tra quelle che pagano cifre molto importanti, anche perché hanno dei fatturati ovviamente ben maggiori, siamo una via di mezzo, come giusto che sia in relazione ai fatturati che abbiamo, ecco, per cui e comunque oggi abbiamo annunciato il rinnovo anche di Maximovic, ci siamo a 9 rinnovi fatti nelle ultime 2-3 settimane, per cui abbiamo direi completato abbastanza bene, manca poco, Glick, adesso dobbiamo definire con lui e poi siamo praticamente a posto. Anche per l'anno prossimo e per gli anni a venire. Chi vince lo scudetto, presidente? Poi la salutiamo, a meno che parli. Facciamo gli auguri al Toro, oggi compie 109 anni. Oggi compie 109 anni. Ricordiamo il progetto che stanno presentando. Pensavo che aveste una torta con candeline. me la deve portare Pardo. Io stavo, aspettando. Adesso la facciamo qua in famiglia, adesso parliamo. 109 candeline non sono poche, ma anche lì c'è un progetto che è molto importante. Però chi vince il campionato? Chi vince il campionato non è facile. Devo dire che il Napoli sta facendo molto molto bene, per cui lo vedo molto molto lanciato. Però poi l'Inter di lunedì ha fatto un secondo tempo ragguardevole, ha dimostrato di avere una grande personalità, per cui secondo me anche l'Inter se la gioca. Io vedo Inter Napoli e fondamentalmente queste due le vedo molto, la Juventus molto no. competitive. Beh, la Juventus, forse anche la Juve potrebbe risalire, insomma, certamente ha fatto le ultime quattro, le ha fatte alla grandissima, ha recuperato bene. Quindi cambia qualcosa nel lavoro quotidiano della squadra, perché voi avete, insomma, dopo tanti anni affrontato il derby davanti alla Juve e siete vicinissimi alla Juve in questo momento. Cambia qualcosa dal punto di vista degli umori della città, dei tifosi? Sicuramente i tifosi sono molto contenti, e il fatto che siamo veramente a un'incollatura dalla Juve fa piacere a tutti loro. Poi però, per quanto riguarda noi dobbiamo andare avanti a fare le nostre cose senza farci influenzare più di tanto da questo tipo di cose. Il 16 dicembre c'è il derby che sì, per gli ottavi di Coppa Italia, e magari potrebbe essere un'idea, la butto lì. Grazie Presidente, grazie a voi, prestissimo. Grazie, grazie, grazie Presidente. Ciao Pierluigi, devo salutare. Ciao, ci sentiamo. Sì, oggi domani. Porto la giustificazione. Ma non c'è problema, basta che porti la torta. Magari basta che porti la torta. Porto la torta, vuoi quella con 109 candeline? Esattamente, così è bella grossa. Grazie. Okay, ciao. Ciao. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Convocati. E tra i convocati di oggi c'è Marco Bellinazzo dal Sole 24 Ore. Eccomi qui, ho risposto. Ci deve, tra un istante, ci racconterà come mai Mr. B ha tradito il Milan e ha preso un pezzo del City. Beh, diciamo che non lo ha tradito e c'entra poco con questa storia, anche se, come giustamente sottolinei, si è detto e scritto di tutto su questa storia. Insomma, poi proviamo a fare un po' di chiarezza. Sì. Enrico Cattania, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a lei, dottor Genda. Buongiorno. Genda, io vorrei dare un piccolo consiglio al dottor Galliani. Se il Milan vuole risolvere tutti i suoi problemi, dovrebbe prendere come direttore il buon Pietro Lomonaco, che per me è un grande conoscitore di calcio e con pochi soldi potrebbe di nuovo tornare ai fasti. Quindi lei è un sostenitore di Lomonaco, non esattamente come Mourinho. Ti ricordi quella sua famosa battuta? Conosco solo Monaco, il Principato di Monaco, Gran Premio Monaco. Di Monaco, lo Monaco del Tibet. No, non lo so. Beh, Monaco, non saprei che dire, dillo tu a Galliani. Che non ha lo fatto senti male a Catania, diciamo, in tante stagioni, però con pochi soldi si è arrangiato anche Galliani, insomma, quindi potrebbe arrangiarsi in due con pochi soldi diventa ancora più difficile. Biagio, Palermo, buongiorno. Buongiorno da Palermo. Beh, noi con Lomonaco non abbiamo avuto una grande esperienza, però per l'amor di Dio, secondo me è un ottimo dirigente. Io chiamavo proprio per questo. Secondo me il problema principale che abbiamo oggi noi qua a Palermo è quello che, dopo aver avuto Foschi e specialmente Sabatini, non abbiamo avuto più un grande direttore sportivo. E quello è, secondo me, quello che ha creato il maggior problema a questa società, perché oggi Palermo è mediocre a livello di campagna acquisti, per cui sì, qua in città si respira un po' l'aria di averla con Zamparini, però mi creda, io che non sono anziano, però una certa età, un poco di anni ce l'ho allo stadio, mi ricordo il Palermo prima di Zamparini. Io che ho 44 anni non l'avevo mai visto in Serie A, l'ho visto con Zamparini. Sì. Onestamente io tanti un po' di confusione su nei confronti di Zamparini non ce l'ho, però ce l'ho sul fatto che non riesce più a trovare un direttore sportivo che poi Foschi e poi Sabatini. Poi importante. Bisognerebbe capire se è interessato ad averne uno, se preferisce fare da solo. Il problema è che il Palermo non solo non ha un direttore sportivo come quelli del passato, ma non ha proprio una società, cioè non esiste un amministratore delegato, Zamparini. Esiste Zamparini che sta in Friuli, quindi il Palermo è dal punto di vista societario è una società fantasma, nel senso che davvero non c'è un punto di riferimento, e questo poi si sente secondo me alla lunga anche sull'andamento della squadra. Se le decisioni vengono prese a 1000 chilometri di distanza e sono tra l'altro già decisioni ondivaghe come quelle che di solito assume Zamparini, e si riflettono su una squadra che tecnicamente ha i limiti che ha, chiaramente questo accentua le difficoltà, per cui credo che insomma non sia solo quello del direttore sportivo, il ruolo vacante, qualche altro problemino ce l'hanno, a partire dalla confusione in panchina, perché secondo me non c'erano poi tutte queste premesse per cambiare la guida tecnica dopo una vittoria, ma quella era una decisione già presa e annunciata, dopo un eccellente stagione e mezza con Iachini, non è che ci fossero tutte queste esigenze. No, credo che Zamparini alla fine sia un po' ostaggio di se stesso, insomma, del suo personaggio. Ce lo disegnano così. Sì, deve a un certo Rabbit. Punto esonerare qualcuno, perché altrimenti sì, scende la sua statistica e quindi... Senti, a parte che c'è un ascoltatore che scrive questo WhatsApp 349-238-6666, Beninazzo tempo sprecato, per gente è tutto buono pur di sputtanare il Milan. Antonio da Brescia, non ho nessuna intenzione di sputtanare il Milan, voglio, fatemi capire, come era titolata quella famosa rubrica del maestro Candido Cannavò. Beh, io credo che in questo momento, diciamo, innanzitutto va posto un argine preciso tra quello che è accaduto a Manchester e che vede coinvolto una cordata cinese. All'interno di questa cordata c'è anche Citic Capital, che fa parte del gruppo Citic, e Citic Bank è una delle realtà e forse il soggetto principale tra i finanziatori del progetto e della cordata che fa capo a Mr. B. Sì. Ha fatto questa operazione che secondo me rappresenta una pietra miliare nello sviluppo poi del calcio moderno, del calcio globalizzato, della goal economy, per giusto per autocitarmi, perché il nuovo asse tra il Manchester City e il Football City Group, quindi con le sue squadre tra New York, Melbourne e il Giappone, oltre che il Manchester City e Manchester Football City Group, che fa capo, ricordiamo, allo Sheikh Mansour, quindi agli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, l'asse che si apre con la Cina. Alleanza tra Emirati Arabi e Cina. Assolutamente, un fatto inedito. Beh, sai, se fosse un caso isolato potremmo anche, come dire, considerarlo tale, un puro evento. In realtà, se lo inquadriamo in tutto quello che il governo di Pechino qualche mese fa, non più tardi di un mese fa, il premier di Pechino con Cameron sono andati a visitare il City e si sono fatti un selfie con Agüero. Sì. Sembrava un po', insomma, una stupidaggine di per sé, in realtà si preparava questo accordo, il 13% del Football City Group che passa ai cinesi per 400 milioni, con una valorizzazione del Football City Group di quasi 3 miliardi di euro, cosa che in qualche modo rivaluta anche come dire, il prezzo del Milan, sia pure con tutti i distinguo, ma qui ci vorrebbe una trasmissione a parte per farlo. Detto questo, si apre uno scenario molto importante, aziende cinesi si muovono su diktat del governo di Pechino, hanno comprato con Wanda Infront il 20% dell'Atletico Madrid, con un'altra realtà che si chiama Rastar hanno comprato l'Espagnol, ora entrano nel mercato inglese, in quello americano, in quello australiano, e intendono chiaramente entrare anche nel mercato italiano attraverso il Milan. Questo dà una cornice più precisa all'operazione Mr. B. Cioè, questo non è esclude fatto. Cioè, tutto quanto abbiamo letto su questo impegno cinese con il gruppo Manchester City per assolutamente, credo che sia del tutto slegato, assolutamente no. Detto questo, quindi a margine la vicenda Mr. B, la trattativa Mr. B sta andando avanti tra alti e bassi, nel senso che giungono alcuni giorni notizie molto positive, confortanti, filtra ottimismo sulla possibilità addirittura di chiudere entro fine anno, viceversa magari poi accadono altri fatti, altre complicazioni nel mettere insieme questo puzzle, e giungono invece notizie opposte e quindi pieno pessimismo sull'esito di questa trattativa. Noi cronisti siamo un po' sballottati, chi come me cerca di fare semplicemente il suo lavoro raccontando da fonti più possibile accreditate rischia davvero di fare una brutta figura su Mr. B, e quindi sono uno di quelli che spero spera che questa trattativa in qualche modo si chiuda velocemente in un senso o nell'altro. Chiaramente sono ancora in prevalenza i segnali positivi che arrivano da Finives e che arriva diciamo dal gruppo dei consulenti che sta continuando a tenere riunioni, però è chiaro che più il tempo passa più diventa un po' troppo lunga la storia. I fatti dimostrano che quando le trattative si vogliono fare e si vogliono chiudere lo si fa velocemente e poi arrivano gli annunci, anche quelle complicate, come nel caso Manchester City ci insegna. C'è chi scrive: ma quale Cina? Sono capitali siciliani domiciliati nella piazza finanziaria cinese. Possiamo, se vuole chiamarci l'ascoltatore, possiamo scrivere libri su libri con le più svariate ipotesi, poi ci vogliono le prove, insomma, se lo diciamo noi poi ci querelano e quindi le non chiacchiere stanno dire. A zero. Però se l'ascoltatore vuole chiamare 800 24 00 24, siamo qui per accogliere ogni tipo di, anche di illazione e suggestione, chiamiamolo così. Bravo, di suggestione. Leone da Piacenza, buongiorno. Buongiorno signor Genta, e grazie per grazie a lei. Ecco. Volevo parlare perché ho sentito il discorso con il giornalista prima, questione di doping, ma una domanda mi fareste piacere a farlo: ma com'è possibile che solo i sport individuali si colpiscono da queste cose e in sport collettivi cioè non mai, cioè, siamo sicuri che nei sport collettivi c'è tutta pulizia possibile? No, non lo ritengo plausibile quantomeno. Poi ci sono anche degli sport nei quali, mi viene in mente banalmente il calcio, ma posso parlare della pallacanestro, in cui il doping migliora o può migliorare fino a un certo punto, perché se per usare una nota espressione, in quel caso soprattutto gli asini non diventano cavalli. Quindi questo è un fatto. Devo dire che con molto cinismo mi viene da dire che insomma dovrebbero essere squalificati per questo modello di doping italiano i dirigenti, perché se i risultati poi sono quelli che sono stati, insomma, hanno sbagliato completamente tutto, ma certo. Questa è una battutaccia, insomma. Abbiamo provato a far luce, no? Cioè, assolutamente. Abbiamo avuto ospite Donato, che insomma atleta di punto, l'ultimo medagliato italiano in atletica leggera, che è finito in questo casino e ha provato a spiegarci come funzionava tra fax, messaggi e email che un po' arrivavano un po' no, password e login che funzionavano un po' sì e un po' no. Poi ha detto: non sto scansando responsabilità, qualche colpa ce l'ho anche io, e questa è una ammissione che gli fa onore. E poi si tratta di capire questa vicenda. Sì, il rischio è che si crei, soprattutto siccome si è parlato tantissimo di quello che è accaduto in Russia e di quello che accade sistematicamente anche in altri paesi. Io vorrei anche capire come funzionano per esempio i controlli antidoping in Giamaica, restando sempre nell'ambito dell'atletica. Anche lì non è che le cose sono andate lisce, eppure c'è stata una maggiore tutela in qualche modo da parte delle federazioni nazionali, non che sia giusto, ma ecco, è quello che è accaduto. Noi non lo so, mi sembra che ci stiamo un po' colpendo da soli e andando a gettare in maniera del tutto spropositata delle ombre su tanti atleti che credo, insomma, non mi sembra, insomma, così a rischio dopo, perché non hanno conseguito risultati straordinari, insomma, molti sono arrivati ad una età tarda ad ottenere dei risultati, quindi segno che il lavoro in qualche modo ha pagato. Presto, adesso diciamo un caso, un colossale caso doping. Qui si tratta di mancate comunicazioni regolari di... Sì, la WADA ha introdotto molti anni fa questo criterio, diciamo, della reperibilità degli atleti di punta. Molti atleti in molte federazioni, penso in Cina per esempio, dove non so come sia possibile far rispettare questi parametri. In Italia è giusto che lo si faccia, però stiamo anche attenti poi a non scambiare quelli che sono magari disorganizzazioni con altro. Dopodiché, guarda, gli atleti secondo me vanno puniti nel momento in cui c'è una responsabilità acclarata diretta, e dobbiamo verificare questo è da verificare naturalmente. D'altra parte, guarda, abbiamo ospitato qualche tempo fa un tecnico italiano di nuoto che è stato nello staff degli allenatori della nazionale russa e candidamente ha ammesso: ma qui quali controlli da parte della federazione? Passavano mesi senza vedere nessuno. Il problema è che ora in questo momento noi rischiamo di gettare, ripeto, un'ombra. L'atletica italiana è dopata e peraltro aggiungo, senza aver ottenuto il benché minimo risultato, quindi con una doppia colpevolezza, se mi passate la cosa, sì. Però questi atleti poi sappiamo come funziona, no? Verranno magari scagionati, ci auguriamo tutto che sia così, e non avranno lo stesso risalto queste notizie sulla stampa. Al momento atleti che ha conquistato le prime pagine anche di quotidiani nazionali per un fatto del tutto negativo. Prima, ripeto, che sia appurato poi che ci sono state dei fenomeni illeciti gravi. È una nostra caratteristica, come dicevo prima, e come ripeto sempre, i processi avvengono sulla pubblica piazza, con tanti saluti, in molti casi alle più normali garanzie giuridiche. Giulio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Non so chi fosse in onda in quel momento di voi, però trovo che, volontario o meno, l'associazione ravvicinatissima di Zamparini, Cognacchini potrebbe essere un'idea valida. Zamparini? Cognacchini. Per fare che? No, lei ha detto Cognacchini. Io? Non lei, mi pare. O qualcun altro. No, voleva dire con l'allenatore Iacchini. Io ho sentito Cognacchini. Ah, adesso ho capito la battuta. Mi era sfuggita. Iacchini. Con Iacchini. Però potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Sì, perché no? Potrebbe... Scusate la divagazione. No, io, nessuna divagazione, qui valgono tutte le divagazioni del mondo. No, non so che dire, insomma, secondo me Iacchini era l'allenatore giusto per il Palermo, i risultati stavano a dimostrarlo. A Zamparini gli ha presa la fissa, l'ha licenziata, ha chiamato Ballardini e potrei anche arrivare a scommettere, se trovassi qualche euro in tasca, che tra un po' Iacchini tornerà su quella panchina. Magari mi sbaglio. Senti, non si sono sbagliati invece gli ispettori che hanno fatto un'altra retata alla FIFA, altri 10 arresti e vai. Tutti per fare un'assemblea devono trovarsi qualche penitenziario. Ho letto che quelli rimasti sono andati alla riunione del comitato esecutivo, ce ne sono pochi. No, abbiamo questa annunciatissima nuova retata dell'FBI attraverso, insomma, la procura svizzera, altri 10 tra i massimi dirigenti della FIFA, vicepresidenti, ma si tratta fondamentalmente dei vertici delle federazioni americane, no? Nordamericane, centroamericane e sudamericane, per le questioni già sollevate a maggio. Parliamo quindi di vendita dei diritti TV a prezzi gonfiati per intascarsi mazzette, fenomeni di corruzione, chi più ne ha più ne metta, è il proseguio di quella indagine. Non mi sorprende che sia avvenuta questa retata con questa cadenza, poi perché c'era la riunione del comitato esecutivo e quindi era immaginabile che in una, diciamo, di queste riunioni, quando li trovavi tutti assieme, facevi un'unica operazione per risparmiare tempo e denaro che i svizzeri ci tengono. Ma a parte l'elemento, diciamo, contestuale, che lascia il tempo che trova, poi questa indagine dovrà appunto appurare. Pare che alcuni tangenti siano passate attraverso istituti americani, da qui la competenza dell'FBI. La cosa che a me lascia un attimo aperto qualche dubbio è la concomitanza tra questo intervento e il fatto che tra pochi giorni, poche settimane, il comitato etico dovrà pronunciarsi sui casi Blatter e Platini, che sono stati sospesi per 90 giorni. Come la vedi? Secondo te che succede? Radiazione? Beh, della giustizia sportiva. L'idea che mi sembra, cioè il clima che sta maturando, mi sembra quello, che porti quello, verso quella direzione, quello. Quindi il segnale che ha dato l'FBI, perché qui non dobbiamo andare, diciamo, fermarci alle mazzette, a quello che è accaduto, perché tutte le manifestazioni internazionali, è un segnale politico che gli Stati Uniti stanno dando da maggio, perché vogliono mettere la testa dentro l'organo di governo del calcio mondiale. Si tratta qui di geopolitica allo stato puro. E quindi si apre uno scenario in vista delle elezioni del 26 febbraio molto particolare, per cui i principali candidati potrebbero essere due esponenti del calcio asiatico e medio orientale. Da un lato abbiamo Hussein di Giordania, quarto figlio di Hussein di Giordania, che è tra l'altro imparentato con Al-Thani, quindi del Qatar, ed ha come suo braccio destro Diego Armando Maradona dal punto di vista politico. E tra l'altro lui si è già presentato con qualche dollaro per la campagna elettorale, non hanno problemi. Tra l'altro è molto gradito agli Stati Uniti, tant'è che hanno avuto il voto degli Stati Uniti quando a maggio si è presentato e è stato sconfitto da Blatter, ha avuto il voto del Canada e della UEFA, quindi potrebbe in qualche modo saldare gli interessi tra Stati Uniti e Qatar, magari con una conferma dei mondiali del Qatar del 2022 e la concessione del mondiale del 2026 degli Stati Uniti. Questo è uno scenario. L'altro è il principe del Bahrain, anche lui ai vertici della Confederazione Asiatica, è molto gradito agli Stati Uniti, i quali quindi non avrebbero un proprio rappresentante ma avrebbero qualcuno che li tuteli rispetto, diciamo, ad altri candidati UEFA, o a uno scenario in cui magari Blatter avrebbe poi potuto, non radiato, insediare qualche uomo di fiducia. Quindi testa sul ceppo per Platini e Blatter, questa è l'ipotesi più probabile. Sta maturando questo clima. Comunque dovremo aspettare poco, perché prima dell'anno è stata promessa una decisione finale entro la fine dell'anno. Ti faccio sentire, caro Marco Beninazzo, cosa ha detto Allegri. Domani, ricordiamo, la Juventus gioca in anticipo degli anticipi contro la Lazio, con problemi di formazione peraltro a centrocampo. Ebbene, cosa ha detto Allegri su Higuain? Non sono assolutamente sicuro di Higuain, perché nessuna squadra al mondo, un giocatore può determinare le sorti di una squadra. È normale, in un contesto che funziona, giocatori come Higuain, Dybala, Neymar, Messi, Lewandowski possono fare sicuramente la differenza, per non parlare di Cristiano Ronaldo, per tutti i grandi campioni. È normale che anche il grande campione ha bisogno del sostegno della squadra. Nella serie trova l'intruso. Sì, no, è davvero l'accostamento. Però, con quegli altri c'entra. Al momento, però, a grandi margini. È uno dei prospetti migliori della Serie A. Dovremmo avere tanti Dybala, tanti Higuain. Ahimè, ce ne sono pochi in Italia, giocatori così determinanti, e loro lo sono. In questo momento, Higuain Allegri fa bene questo discorso. Nessuno può risolvere da solo i problemi della squadra, però. Un bel po' di problemi te li risolve. Napoli gioca benissimo, però qualche volta questo qui allora si inventa il gol, come ha fatto nella prima occasione. Nella specifica prestazione big match Napoli-Inter, in cui Napoli ha giocato forse la peggiore partita degli ultimi due mesi, anche per merito dell'Inter, ed è riuscito comunque a vincere grazie a un giocatore che, diciamo, si è costruito da solo certe azioni, certi gol. È evidente, tra l'altro, credo personalmente che se non avesse segnato Higuain subito e se l'Inter non fosse rimasto in 11, il Napoli avrebbe giocato molto meglio e magari avrebbe anche vinto in maniera più lampante. Però questo non abbiamo le controprove, però è un'ipotesi. È un'ipotesi, perché appunto il Napoli non ha sfoderato quelle prestazioni, ripeto, aveva di fronte l'Inter, un'altra squadra, ma ha giocato abbastanza male anche nei 20 minuti finali. Sì, nei 20 minuti finali, però non nei primi, direi che per 60-70 minuti. Sì, non si è visto però quel calcio, come dire, fluido che si è visto in altre partite. L'Inter è maestra nel farlo, certo, infatti temevo molto sotto ritmo e sotto tono. In ogni caso, il Napoli a 9 punti dalla salvezza, e questo mi dà grande speranza. La notizia è questa: il Napoli a 9 punti dalla salvezza. Io mi scuso con Giovanni da Ragusa e Marco della provincia di Caserta, non riusciamo a parlare perché il tempo è scaduto, ma se volete intervenire domani sarete i primi della lista. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Andrea Roccabella in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, Marco Beninazzo qui con me, a presto, sempre gradito ospite. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Arrivederci ragazzi, ciao.